Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Città del Messico, 12 ottobre 1968. Nella capitale dello stato centroamericano si aprono i 19esimi Giochi Olimpici. È un'Olimpiade segnata da una serie di prime volte. Per la prima volta si svolgono in un paese in via di sviluppo. Per la prima volta in America Latina. Per la prima volta in un paese di lingua spagnola. Per la prima volta in autunno e non in estate. E per la prima volta in altura, sopra i 2000 metri. La messicana è anche una fra le Olimpiadi più controverse della storia. L'altitudine ha messo in discussione fino all'ultimo la partecipazione di alcuni fra i più importanti contingenti mondiali, preoccupati per la salute degli atleti. Inoltre, il 1968 è ovunque l'anno della contestazione. Qui, nel paese americano, essa ha lasciato una preoccupante scia di sangue. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, 10 giorni prima dell'apertura dei giochi, gli studenti messicani si danno appuntamento nella Piazza delle Tre Culture, nel centro della capitale, per portare avanti la loro protesta. Polizia e esercito, su ordine del presidente Gustavo Díaz Ortaz, sparano all'impazzata, dopo aver bloccato le uscite della piazza. Il bilancio in termini di morti è altissimo, anche se non se ne avrà mai un resoconto definitivo. L'indignazione internazionale per questa tremenda strage riporta di nuovo in discussione la regolarità dei giochi. Ciò nonostante, il 12 ottobre, nella capitale messicana, le Olimpiadi si aprono secondo il programma. Sul piano agonistico, quelle Olimpiadi passano alla storia come le Olimpiadi dell'americano Bob Beamon, che frantuma il record del mondo del salto in lungo con un prodigioso 8 metri e 90 centimetri. On the long jump runway, Bobby Beamon of the United States, the man most feared by every competitor in this competition. E di Tommy Smith, anch'egli statunitense, che corre i 200 metri piani in 19.83, primo uomo a scendere sotto la soglia dei 20 secondi. This is the hottest 200 meter field ever assembled at the Olympic Games. Second attempt now to get them away. Durante la cerimonia di premiazione, Tommy Smith e il suo connazionale John Carlos, entrambi afroamericani, danno vita a una protesta che entra immediatamente nella storia dei Giochi Olimpici. Mentre nello stadio olimpico risuonano le note dell'inno americano, i due salgono sul podio scalzi e chinano il capo mentre sollevano al cielo un pugno con un guanto nero. Il gesto esplicito, nell'anno in cui perde la vita il leader afroamericano Martin Luther King, sottolinea il loro orgoglio nero ed è destinato a sostenere il movimento denominato Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Carlos farà questa dichiarazione alla stampa. Siamo stufi di essere cavalli da parata alle Olimpiadi e carne da cannone in Vietnam. L'immagine fa il giro del mondo e diventa il simbolo del Black Power, il movimento che in quegli anni lotta aspramente per i diritti dei neri negli Stati Uniti. Avery Brundage, a quei tempi presidente del CIO, considera il gesto fuori luogo, ritenendo che la politica dovesse rimanere estranea ai giochi olimpici. Smith e Carlos vengono sospesi dalla squadra americana con effetto immediato ed espulsi dal villaggio olimpico. Tornati in patria, subiscono altre ritorsioni, fino a ricevere addirittura minacce di morte. Questi sono alcuni dettagli della storia di quell'Olimpiade. La storia ufficiale, quella grande, quella che fa notizie e finisce sui libri. Un'Olimpiade però è fatta di tante piccole storie di giovani atleti che vivono un sogno, respirano un'atmosfera unica e indimenticabile, al di là delle medaglie, dei trionfi, dei titoli dei giornali. Gli atleti italiani che volano a Città del Messico per gareggiare sono 171, 156 uomini e 15 donne. Porteranno a casa 16 medaglie, ma per molti di loro semplicemente l'esserci è il coronamento di tante fatiche. Il canottaggio è uno dei più antichi sport olimpici. È entrato a far parte delle competizioni a cinque cerchi a partire dalla seconda edizione dei Giochi Moderni, datati 1900. Nel 1968 la squadra azzurra di canottaggio riesce ad aggiudicarsi un oro e un bronzo. L'oro arriva da Primo Baran e Renzo Sambo nel due con, guidati dal giovanissimo timoniere Bruno Cipolla. La notte è ancora incerta, tanto l'Olanda, quanto l'Italia, quanto la Germania orientale possono vincere la medaglia d'oro. Mentre non sono molto lontani nemmeno la Danimarca e gli Stati Uniti. L'unica formazione che ha deluso parecchio è quella della Germania occidentale. Sembra circoscriversi la lotta ad azzurri e olandesi che lottano sul filo dei centimetri. Gli italiani sono in testa di circa 2 metri, procedono verso la medaglia d'oro, mentre gli olandesi devono difendersi dall'attacco dei danesi e dei tedeschi orientali. Vince l'Italia, seconda è l'Olanda e per il terzo posto stabilirà la fotografia tra tedeschi orientali e danesi. Nell'ex palude di Hockey Milko, i due canottieri azzurri sbaragliano la concorrenza. Bruno Cipolla ha solo 16 anni quando sale sul podio con la medaglia d'oro al collo e l'inno di Mameli nelle orecchie. Il bronzo nel canottaggio in quell'Olimpiade viene dal quartetto del Quattro Senze. Renato Bosatta, Pierangelo Conti, Tullio Baraglia, Abramo Albini. Nomi sconosciuti ai più, perché in quegli anni il canottaggio è ancora uno sport di nicchia. Tra i canottieri italiani impegnati in quell'Olimpiade messicana c'è un giovane atleta considerato una grande promessa di questo sport. Campione mondiale juniores, viene portato all'Olimpiade pur sapendo che forse è ancora un po' acerbo. Deve crescere e l'esperienza olimpica servirà a farlo maturare in vista dell'appuntamento di Monaco del 1972. Ha 22 anni e si chiama Giampiero Galeazzi. Giampiero Galeazzi. Giampiero Galeazzi è nato a Roma il 18 maggio del 1946. Il padre è insegnante di canottaggio nel prestigioso circolo dei canottieri Roma, uno dei punti di riferimento italiani per chi voglia cimentarsi con uno sport a remi o con il tennis, data la presenza di numerosi splendidi campi in terra rossa. Si tratta del circolo, per capirci, che ospita quei campi da tennis in cui si è allenato ed è cresciuto Nicola Pietrangeli. Nella sua infanzia ci sono quindi remi e racchette. Sono figlio di Simone, mio padre è stato all'Olimpiade di Los Angeles, sempre in canottaggio, che poi sono anche il mio allenatore. Giampiero Galeazzi, sotto la guida del padre, inizia a praticare la canoa e passa poi al canottaggio. La sua struttura fisica diventa presto imponente, ma almeno inizialmente longilinea. A 19 anni arriva a 1,95 m per 90 kg. Non trascura gli studi, ma inizia ad allenarsi con assiduità e costanza. E inizia a vincere. Campione del mondo junior, 5 vittorie negli assoluti. Ho iniziato negli anni 60 con la canoa. Infatti io sono l'unico in Italia ad aver vinto. Forse ce n'è un altro, ha servito un titolo italiano in canoa e in canottaggio. Nel 1968 la nazionale di canottaggio pensa che possa essere utile spedirlo alle Olimpiadi di Città del Messico per farsi le ossa. Innanzitutto c'è l'emozione della sfilata olimpica nella cerimonia d'apertura, insieme a tutti gli atleti italiani e delle squadre di tutto il mondo, in uno stadio gremito di folla, con gli occhi di milioni di telespettatori addosso. Poi c'è la gara. Galeazzi non sfigura affatto. Ero vocatore di coppia. Io parte della squadra, ero campione assoluto, 95 volte campione assoluto, nel Messico andai nella squadra del canottaggio e feci parte del quattro ronde che ha preso una medaglia come riserva. L'oro, quindi, per Giampiero Galeazzi è ancora un sogno lontano, ma ci sono 4 lunghi anni per dare corpo e forma al suo sogno olimpico. Monaco di Baviera, nel vicino 1972. Nel frattempo, il canottiere romano prosegue con ottimi risultati gli studi. Arriva una laurea in statistica, un indirizzo che si sposa benissimo con la sua straordinaria passione per gli sport. Nell'agosto del 1970 sono in programma i mondiali di canottaggio a St. Catharines, in Canada, una delle più suggestive cittadine dell'Ontario. Sono un appuntamento fondamentale perché è esattamente a metà strada tra le Olimpiadi messicane e il successivo appuntamento olimpionico di Monaco di Baviera. Un test chiave, quindi, che darà indicazioni precise sui valori messi in campo dalle varie nazioni. È chiaro, sin dai primi mesi di quell'anno, che Giampiero Galeazzi sarà uno degli uomini di punta di quella spedizione iridata e uno degli atleti su cui il canottaggio italiano investirà di più nella successiva Olimpiade tedesca. Ma proprio la passione per gli sport, per tutti gli sport, lo tradisce sul più bello. Sì, se da dove non l'ho fatto, il semplice fatto è che mi ruppi una gamba e fui squalificato a 2 mesi da campione del mondo di Santa Caterina. Un legamento giocando a pallone, poi squalificato, fu la fortuna mia perché fu chiamato dalla RAI a aspettare le Olimpiadi come radionista, perciò non tutti i mali vengono per noi. Ad un passo dal traguardo più importante, dal sogno olimpico, la vita da atleta di uno dei più promettenti giovani canottieri italiani finisce a causa di un infortunio e di un'assurda squalifica. Giampiero ha un carattere molto romano, nel senso migliore del termine. Fatalisticamente ottimista, riesce a farsi rapidamente una ragione del suo dramma sportivo e a reinventarsi con tenacia. Possiede una buona cultura di base, una sterminata conoscenza degli sport, tennis, calcio e naturalmente canottaggio su tutti. Conosce poi personalmente Guglielmo Moretti, storico radiocronista della RAI che frequentava il circolo dei canottieri Roma. Inizia ad accompagnarlo nelle sue trasferte lavorative, a osservarlo, a studiarne il mestiere, a inventare per sé, in poche parole, un altro futuro. Roma, primi anni 70. Giampiero Galeazzi abbandona le sue prospettive olimpioniche da canottiere e inizia a studiare da giornalista sportivo. Lo fa sul campo, offrendosi come assistente di alcuni radiocronisti RAI, Guglielmo Moretti prima e Guido Oddo poi. Lo fa anche sulla carta stampata. Sul più importante quotidiano romano, Il Messaggero, inizia a curare una divertente rubrica, La vita dei circoli romani. Sport, ma anche colore, gossip, folklore e qualche bonaria e leggera fiammata sociologica animano le colonne della sua rubrica. La laurea in statistica fa il resto e lo facilita nelle analisi e nelle letture degli eventi sportivi. Il 1972, l'anno che avrebbe dovuto vederlo gareggiare per l'oro olimpico a Monaco, vede invece Galeazzi esordire in TV. Le sue prime trasmissioni in RAI sono Mercoledì Sport e Dribbling. Il primo sport che è chiamato a commentare è il tennis. E sbaglia Landre. Panatta si aggiudica quindi la partita col punteggio di 6-4, 1-6, 6-0, 6-0. 12 giochi di fila per Panatta che ha veramente dimostrato di essere in grande forma, speriamo bene per il doppio. Negli anni, Giampiero Galeazzi si costruisce una solida reputazione come giornalista e commentatore sportivo. Mentre si occupa degli sport cosiddetti maggiori, il suo cuore resta legato al canottaggio e a quel sogno olimpico infranto con troppa leggerezza. Cosa darebbe Galeazzi per poterlo rivivere in prima persona, per poter riassaporare quell'atmosfera, per poter prendere parte a quella corsa all'oro che lo ha visto troppo presto escluso? Sembra impossibile, ma a volte il destino, per elargire i suoi imprevedibili risarcimenti, segue percorsi strani e bizzarri. Rimaniamo negli anni 70, ma spostiamoci a Napoli, in una città segnata da contrasti e da mille problemi, in cui il processo di industrializzazione ha conosciuto uno sviluppo meno deciso che altrove e ha tagliato fuori una fetta consistente della popolazione. In quegli anni sono ancora molte le famiglie che basano la propria sopravvivenza su un'economia contadina. Vincenzo e Virginia, ad esempio, sono due agricoltori di Pompei. Hanno un campo di gladioli che vendono a una cooperativa che li esporta in tutto il mondo, non troppo distante dalle rovine dell'antica Pompei, all'imbocco della statale che porta a Castellammare di Stabia. Vincenzo e Virginia hanno 6 figli. I maschi sono Giuseppe e Carmine, divisi da poco più di 2 anni, e Agostino, il più piccolo. Le femmine sono Maria e 2 gemelline, Nunzia e Rosanna. Sin da piccoli, i tre maschietti di questa tipica famiglia contadina del napoletano aiutano il papà nei campi, i piedi nudi nella scura terra resa fertile dalla lava del Vesuvio e la schiena curva sui fiori da accudire con amore. Le tre femmine aiutano mamma Virginia nelle faccende di casa. Il ciclo della raccolta dei gladioli è continuo e il lavoro sembra non finire mai. Giuseppe e Carmine, però, non hanno grande passione per il lavoro nei campi. Appena possono, raggiungono il mare, con il permesso del padre che li manda volentieri a nuotare, affinché si irrobustiscano e possano essere più efficaci nei campi. Non sa il signor Vincenzo che il mare e l'acqua gli sottrarrà per sempre due contadini per restituirgli due campioni. Non lo sanno questo nemmeno i suoi figli, Carmine e Giuseppe a Bagnale. Non sa Giampiero Galeazzi che proprio da qui, dalla costa vicino a Castellammare di Stabia, passa il riscatto del suo sogno olimpico. Oggi a Destini Incrociati stiamo raccontando una storia sportiva, fatta di fatica e sofferenza, di beffe del destino e di risarcimenti. Abbiamo raccontato la vicenda sportiva di Giampiero Galeazzi, con quell'infortunio al ginocchio che lo priva del sogno olimpico nel canottaggio e lo spinge verso la carriera di giornalista sportivo. E abbiamo iniziato a raccontare la storia di due fratelli di Pompei, Carmine e Giuseppe Abbagnale, che negli anni 70, proprio mentre Galeazzi diventa commentatore, muovono i primi passi verso il canottaggio. La strada che porta da Pompei a Castellammare è trafficatissima sin dalle prime luci dell'alba, con quel traffico disordinato e irregolare che si trova solo da queste parti. Lungo questa strada, alle 5:30 del mattino, Giuseppe e Carmine, classe 1959 il primo, 1962 il secondo, partono di corsa verso il mare. Ad attenderli, una barca a remi e il programma d'allenamento stabilito dallo zio, Giuseppe Lamura, grandissimo appassionato di canottaggio, cardiologo e a tempo perso allenatore al circolo nautico di Castellammare. Giuseppe Lamura, cardiologo della Mutua, era il fratello minore di mamma Virginia. Era stato campione italiano di canoa nel 1962 ed era quasi fanatico di questo sport. Quando si accorge della prestanza fisica dei nipoti, unisce la loro scarsa propensione a fare i contadini con la sua ambizione di allenare due campioni di canottaggio. Il primo ostacolo da superare è il padre Vincenzo, che per Carmine e Giuseppe ha ben altri progetti. Per ammorbidirlo, il dottor Lamura si serve della sorella, mamma Virginia. Mio marito ed io vedevamo in Giuseppe un bel contadino. Il campo di gladioli ne aveva bisogno. Un giorno mio fratello mi chiese di farlo andare in barca con lui e lo portò a Castellammare. Giuseppe aveva 14 anni e non sapeva neanche nuotare. I fratelli Abbagnale iniziano ad allenarsi come canottieri quando hanno 16 e 14 anni. Già fisicamente fortissimi, dimostrano sin da giovanissimi una tenuta psicologica e una determinazione fortissime. Sono spinti soprattutto dalla caparbia ostinazione con cui vogliono dimostrare a loro padre, che non l'ha certo presa bene, di avere imboccato la strada giusta, come racconterà Giuseppe anni dopo in una delle rare interviste rilasciata a un giornale locale. Non ci piaceva lavorare la terra e disubbidimmo a papà. Prendendo la nostra strada nel canottaggio, ci siamo dati subito un obiettivo: vincere per dimostrare che avevamo avuto ragione a lasciare i campi. La corsa dà un grande vantaggio all'apparato circolatorio, sentenzia lo zio, che per loro è il dottor Lamura. Tra lui e i nipoti il rapporto è molto duro, tanto che questi un po' all'antica, oltre a chiamarlo dottore, gli danno del voi. Fatto sta che proprio su ordine dello zio, i fratelloni macinano chilometri su chilometri di corsa prima e in acqua poi. Il successo è una lunga pazienza, recita un cartello che Lamura ha fatto appendere al circolo per Giuseppe e Carmine. Loro sono contadini e la terra ha insegnato ad aver pazienza fino in fondo, se necessario. Così i due giovani colossi continuano infaticabili ad allenarsi senza sosta. Admitting life is hard without. hear me. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. Carmine e Giuseppe Abagnale, fino al 1978, si allenano insieme, ma vogano separatamente su imbarcazioni diverse. Poi, crescendo, i 2 anni di differenza d'età diventano un'inezia e così i 2 decidono di competere insieme. Si specializzano nel due con. Quel con indica che sulla barca insieme a loro sale anche il timoniere, l'uomo che deve dare ritmo e preziose indicazioni. Lo individuano in Giuseppe Di Capua, detto Peppiniello, perché la sua struttura fisica, quando è vicino ai 2 fratelli, sembra quella di un piccolo gnomo. Fa l'impiegato part-time alla SIP, la vecchia compagnia telefonica nazionale, Peppiniello, tutte le sere dalle 8 all'1 di notte. Ma alle 6 del mattino è già in barca con Carmine e Giuseppe per costruire un sogno. Le giornate dei fratelli Abagnale sono straordinariamente ripetitive. Sveglia alle 5, scorpacciata di frutta, poi via di corsa, 6 chilometri verso Castellammare. 4 minuti per chilometro, perché non hanno un'auto e tutti gli spostamenti vengono fatti di corsa per ottimizzare i tempi. Poi, dopo le prime vogate, la mattina si va a scuola. Nel primo pomeriggio, di nuovo avanti e indietro a colpi di remi dal circolo allo scoglio di Rovigliano, che secondo la leggenda sarebbe un sasso scagliato da un ciclopo. Piccola pausa per studiare e poi la sera si torna a vogare con Peppiniello che dà il tempo nella barca e lo zio che strilla con il megafono a riva dopo aver acceso dei fuochi sul lungomare per far sì che il terzetto in acqua non smarrisca la via. Quindi di nuovo di corsa verso casa. 4 minuti per chilometro. Il 1980 è l'anno dell'esordio dei fratelli Abagnale a livello nazionale. Mentre il presidente del circolo nautico di Castellammare, Pasquale Gaeta, si fa 9 giorni di carcere per la costruzione di una palestra abusiva richiesta dalla Mura per i 2 fratelli, la barca di Carmine, Giuseppe e Peppiniello vince i campionati italiani. Così, in sordina, da perfetti sconosciuti. Un caso, si dice. Sarà, ma l'anno dopo, la Federazione Italiana li schiera ai mondiali che si disputano in Germania. Di nuovo a sorpresa, dopo una gara perfetta, Giuseppe Abagnale, 22 anni, Carmine Abagnale, 20 anni e Peppiniello Di Capua, 23 anni, battono l'invincibile imbarcazione della Germania dell'Est e risollevano di colpo il canottaggio italiano dopo l'oblio in cui era sprofondato dopo la vittoria nelle Olimpiadi di Città del Messico del 1968. In questa bella storia tutta italiana c'è un'ombra, una macchia, se così si può dire, di carattere mediatico. I fratelloni vincono, certo, ma nel nostro paese a saperlo sono proprio in pochi. Lo sport in cui eccellono, purtroppo per loro, raccoglie pochi consensi, non fa audience, per cui i passaggi televisivi sono pochi, gli sponsor ancora meno. Per questo motivo, tra l'altro, i 2 fratelli, finite le scuole, vivono nella costante preoccupazione di trovare un lavoro vero che li possa sostentare quando gli esigui premi della federazione non arriveranno più. Per questo stesso motivo, per questa sorta di invisibilità del canottaggio, anche i successi del 1982 a Lucerna, l'argento del 1983 a Duisburg, dietro agli storici rivali della Germania dell'Est, non ottengono la rilevanza mediatica che meriterebbero. Le cose vanno in maniera leggermente diversa nel 1984, ai Giochi Olimpici di Los Angeles. La 23esima Olimpiade si apre il 28 luglio del 1984 nella metropoli californiana. Ronald Reagan, presidente americano, inaugura i giochi. Celebrating the 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Sono Olimpiadi monche. L'Unione Sovietica boicotta i giochi del nemico americano appena prima l'inizio del disgelo e con Mosca disertano i giochi tutte le nazioni del Patto di Varsavia. Nel canottaggio, gli Abagnale vengono privati dei loro avversari più accreditati, i tedeschi dell'Est. Vincono uno splendido oro, precedendo di poco sul lago Casitas l'equipaggio rumeno. Pompei e Castellammare salutano la vittoria olimpica con caroselli di automobili imbandierate e strombazzanti, come faranno in futuro solo per il Napoli di Maradona. Il resto dell'Italia gioisce distrattamente e tiepidamente. Al ritorno dall'America, Giuseppe, già 25enne, è sempre più preoccupato per l'assenza di un lavoro nel suo futuro. Servirà un'altra Olimpiade per entrare nel mito e un cantastorie adeguato, in grado di immortalare le loro gesta per raggiungere il largo bacino dell'opinione pubblica. Quello che tu cerchi tu proprio non lo sai, quello che tu cerchi è già qui, è davanti a te, non lo vedi che solo il tuo destino sono ogni tuo perché. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati abbiamo raccontato le storie di Giampiero Galeazzi e dei fratelli Abagnale. Il primo è un promettente giovane canottiere che prende parte alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e che a causa di un infortunio al ginocchio deve rinunciare a soli 23 anni alla sua carriera e al suo sogno olimpico per diventare giornalista e commentatore sportivo. Carmine e Giuseppe Abagnale, invece, sono due ragazzoni di Pompei che da contadini si trasformano in eroi del canottaggio italiano, oro olimpico a Los Angeles nel 1984, dopo due titoli mondiali. Ma il canottaggio è sport ancora poco seguito in Italia. Perché le loro gesta diventino una leggenda nazional popolare, le loro strade e quella di Giampiero Galeazzi si devono incrociare. Nel 1986, Giuseppe Abagnale, di nuovo preoccupato per l'assenza di un lavoro, lascia temporaneamente l'attività agonistica. Il dottor Di Mura, zio allenatore, lo convince a riprendere i remi poco dopo avergli trovato un impiego in banca. Per i mondiali di quell'anno però è ormai tardi per poter affrontare in modo adeguato la sfida lanciata da Andrew Holmes e Steve Redgrave, due colossi britannici, medaglie d'oro a Los Angeles nel 4 con, che si sono infatti prefissati di demolire la supremazia dei fratelli Campani. Ai mondiali di Nottingham, per gli Abagnale, arriva una cocente sconfitta. La sconfitta di Nottingham dà voglia di rivincita all'equipaggio azzurro. Nei successivi mondiali a Copenaghen gli Abagnale vincono e la sfida decisiva con gli inglesi viene fissata per le Olimpiadi coreane di Seul del 1988. Olimpiadi che vengono preparate con uno spirito particolare, perché potrebbero essere le ultime e perché, dopo Giuseppe, anche Carmine, nel frattempo diplomatosi all'ISEF, ha trovato da poco lavoro presso un ente pubblico. La preparazione si svolge in un contesto psicologico più favorevole e sereno, l'ideale per affrontare la battaglia contro l'equipaggio inglese. Mentre lo sport azzurro prepara le squadre che si dovranno cimentare nelle varie specialità, anche la RAI si organizza per coprire al meglio l'evento. Molte gare saranno in orari difficili per i palinsesti italiani, ma gli appassionati non si faranno certamente scoraggiare. Anche Giampiero Galeazzi, che ormai nel 1988 è uno dei giornalisti sportivi più importanti e noti d'Italia, viene inserito nel team di telecronisti che seguiranno l'Olimpiade. Non è la prima Olimpiade da commentatore per Giampiero. Il giornalista romano, nei giochi coreani, farà anche le telecronache delle gare di canottaggio, assicurando qualità, passione e competenza. C'è stato questo felice dubbio dell'ex campione che aveva fatto tutta la gavetta come radiolonista, poi come telefonista, e perciò è una specie di cocktail micidiale, perché normalmente c'è il campione ma non c'è il radiolonista, il radiolonista non sa tutte le cose che sa il campione, non succede mai questa miscela, no? Commentando le gare olimpiche degli Abagnale attraverso le loro grandi imprese, quasi remando con loro, Giampiero Galeazzi vive finalmente quella competizione olimpica che il destino gli aveva sottratto. Ma non c'è dubbio, abbiamo vinto insieme, certo. Io non avrei mai vinto alle Olimpiadi, non avevo il nome per vincere l'Olimpiade, ero un buon atleta, campione assoluto, campione del mondo junior, però non avevo la statura per vincere l'Olimpiade di Cantaggi. Yeah. Le batterie di qualificazione per gli abbagnale procedono senza intoppi, accompagnate dalle telecronache sempre più appassionate di Giampiero Galeazzi. Successo dopo successo, si arriva alla finale. Ma un piccolo traguardo, l'equipaggio napoletano lo ha già ottenuto, grazie anche proprio a Galeazzi, ormai una sorta di quarto uomo sulla barca, e ai suoi suggestivi commenti. In Italia, da nord a sud, non più solo a Pompei, si parla di questi due ragazzoni eroici, questi due contadini del mare, che emozionano, suggestionano gli sportivi italiani sulla loro Pummarola Boat, come è stata ribattezzata la loro barca. Così, il 25 settembre del 1988, nel bacino di Misari, va in scena la finale del Due Con. La sfida è tra gli abbagnale e gli inglesi. Il commento è di Giampiero Galeazzi. Partenza violentissima di Giuseppe Carmine Abbagnale. Vedo che la mura sta contando, ora sono 42 colpi, si sta allungando. Giuseppe sta reggendo magnificamente Carmine in questo momento, e dunque non vale più il discorso tattico. Chi ascolta questa telecronaca da casa non può fare a meno di notare una cosa. L'impressione è che Giampiero Galeazzi si trovi sulla barca con gli Abbagnale, si senta lì con loro, a remare per loro. È come se quel sogno olimpico che gli era sfuggito quando era giovane si fosse materializzato ora, attraverso le gesta straordinarie dei fratelloni di Pompei. Nell'afoso bacino coreano, Carmine, Giuseppe e Pepiniello staccano i rivali inglesi sin dai primi metri. Partono con un ritmo infernale, gli Abbagnale, quasi insostenibile. Difficile, si pensa, che questa furia possa essere mantenuta per tutta la gara. Prima o poi l'intensità calerà e gli inglesi, peraltro più giovani, rientreranno. Niente di tutto ciò. Le lunghe corse sulla statale di Castellammare hanno forgiato due uomini indistruttibili, e a cedere sono gli inglesi. Galeazzi sembra incontenibile. Ultimi 250 metri li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine Abbagnale in testa si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est. Mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout, ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est, e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Questa telecronaca eccessiva, barocca, debordante, racchiude la gioia di un uomo che per interposta persona, a distanza di 20 anni, ha coronato il proprio sogno sportivo. È uno scambio alla pari. Se Galeazzi, commentando il trionfo degli Abbagnale, riscatta almeno in parte la propria delusione giovanile, i fratelloni beneficiano di questa smisurata telecronaca, finendo proiettati nell'immaginario di una nazione intera, eroi nazional popolari, simbolo di un'Italia giusta e sana. Sono stati veramente i più grandi in assoluto. Insieme a Coppi sono veramente i padri dello sport italiano, i padri tutelari. Io ieri ho fatto un fatto a dire agli altri, cioè noi gli anni battiamo noi stessi, è una sfida continua con se stessi. Poi vengono da Castellammare, capito? Non è che vengono da Berlino. Mentre poche ore più tardi, anche il fratello minore, Agostino, altro prodotto degli allenamenti dello zio allenatore Giuseppe Di Mura, porta a Pompei un'altra medaglia olimpica. Non sarà l'ultimo successo della famiglia più vincente del canottaggio italiano. Di sicuro è il più epico ed esaltante. La Gazzetta dello Sport, il giorno dopo, suggella il trionfo della famiglia Abbagnale con un titolo più che emblematico. Siamo un popolo di Abbagnale. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Altri destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.